Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi stiamo producendo delle norme che trasformeranno il contesto costituzionale italiano in uno scenario di questo genere, i confini di un campo da calcio in cui si gioca a baseball con le regole del rugby, e questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cosa ne pensa per esempio Mario Mauro del gruppo misto proprio della riforma del Senato, che sta creando molto malcontento, tant'è che si dice che si sta formando nelle ultime ore, negli ultimi giorni in realtà, una bella fronda anche all'interno del PD di esponenti politici che non ne vogliono sapere di questa riforma del Senato così come è stata pensata da Renzi, voluta da Renzi, no? Con solo sindaci e consiglieri regionali, molto ridotto, senza stipendio, senza potere. Però ci sarebbe l'immunità, insomma, e molti lo vorrebbero elettivo, ecco, questo diciamo è la vera questione di fondo. Questo per dirvi è uno dei temi politici di oggi, però parlerò con voi di molte altre cose, con gli ospiti parleremo anche del fatto che la signora Franzoni, ricordate, la mamma di Cogne, è da oggi ai domiciliari, quindi è tornata a casa sua. Avevamo avuto un perito di parte 2 giorni fa, stasera ci sarà invece un perito del tribunale, e poi tanti altri temi. Torneremo sui mondiali, vedo già dei vostri messaggi sulla sanzione abbastanza pesante che è stata data a Suarez, il morsicatore. Vedo per esempio Antonio che dice: come al solito questi atleti, la squadra di appartenenza, scordano che sono personaggi pubblici e a ragione dovrebbero assumere un comportamento di esempio per le nuove generazioni e quindi la collettività, dice così Antonio, detto Tony. Poi ce ne sono molti altri, ma intanto direi, se voi volete, c'è la pagina Facebook appunto che ho appena citato di Effetto Notte per i vostri commenti sulla sanzione a Suarez, ma anche su tutti gli altri temi che affronterò con voi stasera, oppure c'è il numero degli sms che potete mandare al 349-238-6666. Vi riepilogo come sempre però all'inizio della giornata. Il vertice europeo, Renzi sottolinea l'Europa si dia una mossa su occupazione, pensi alle famiglie, e intanto si fa più vicino alla nomina di Juncker per la Commissione europea. Economia, Confindustria taglia le stime del PIL, il presidente Squinzi commenta: numeri difficili ma siamo fuori dal baratro. Le riforme, si riapre il nodo del Senato, come vi dicevo tensioni nel PD, in 34 chiedono l'eleggibilità. La vicenda di Cogne, concessi domiciliari ad Anna Maria Franzoni, è tornata a casa vicino Bologna. Il sinodo per la famiglia, la Chiesa prende atto che tanti cristiani non accettano più integralmente la dottrina. Diritti TV per la Serie A, raggiunto l'accordo, a Sky vanno tutti i match e a Mediaset le big. Mondiale brasiliano è finito non solo per gli azzurri, il morso costa Suarez 9 partite in nazionale, sospese, 4 mesi di squalifica. Il Portogallo intanto, per quanto riguarda le partite, ha battuto 2-1 il Ghana nell'ultima partita del gruppo, entrambe le formazioni sono state eliminate, mentre la Germania batte gli Stati Uniti per 1-0, si qualificano tutte e due. Ma partiamo dal vertice europeo di Ypres nelle Fiandre, in Belgio, dove sembra che si sia arrivati a un accordo per la nomina del nuovo presidente della Commissione europea, che dovrebbe essere Juncker, ma solo con un documento chiaro sulla strategia in Europa, così ha sottolineato Renzi. Poi ci colleghiamo direttamente con il nostro inviato per capire a che accordi o che compromessi sono arrivati. Intanto ci sono i dati economici di Confindustria. Confindustria esclude una manovra bis, ma sollecita una scossa politica. 1 milione di posti di lavoro andati in fumo dall'inizio della crisi, le stime del PIL riviste al ribasso, 0,2% contro lo 0,7% inizialmente previsto per il 2014, 1,2% contro l'1% per il 2015. L'Italia è malata di lenta crescita e come un paziente che fatica a reagire alle cure, dice il centro studi di Confindustria. Numeri difficili senza dubbio, ma il nostro paese è fuori dal baratro e ci sono anche prospettive di miglioramento, dice il presidente di Confindustria Squinzi. Usciamo dalla stretta lettura aziendale e guardiamo al paese nel suo complesso. L'Italia ha tutte le carte in regola per superare questo difficile momento e riprendere il cammino della crescita. Non tra qualche anno, subito. Insomma, il nostro paese ha le potenzialità per uscire da questa difficile fase e il clima politico aiuta, si sta ricostruendo una fiducia e dunque da Squinzi un nuovo attestato di stima nei confronti dell'esecutivo Renzi e nelle possibilità di portare avanti le riforme. Bisogna avere e dare al paese le giuste priorità. Scegliere è difficile, ma il coraggio e la volontà facoltà di decidere non sembrano mancare al nostro Presidente del Consiglio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, replica: per adesso siamo fiduciosi della nostra previsione sul PIL. Il governo prevede per quest'anno una crescita del PIL dello 0,8%. Siamo convinti, ha detto Del Rio, che le riforme messe in campo provocheranno uno shock positivo. Fiducioso anche il ministro dell'Economia Padoan, che precisa però che dalla crisi non siamo ancora usciti, e effettivamente ce ne siamo accorti. Ma la crescita è a rischio anche per troppa corruzione in Italia, si è detto tante volte. La nuova strigliata arriva dalla Corte dei Conti nel giorno di insediamento di Cantone a Milano per i controlli sull'Expo. La corruzione può attecchire dovunque, nessun organismo e nessuna istituzione ne sono indenni e possono considerarsi scevri da responsabilità. È durissima l'analisi del procuratore generale della Corte dei Conti Nottola. Parla durante la presentazione del giudizio della magistratura contabile sul rendiconto generale dello Stato e indica la corruzione come uno dei fattori che condiziona l'economia del Paese, al pari dell'evasione fiscale, del sommerso e della criminalità organizzata. Fenomeni collegati tra loro e che a volte si intrecciano. In quella che è stata una vera e propria requisitoria sul tema, Nottola ha anche parlato dell'Expo, che con le sue troppe deroghe a norme e controlli ha rappresentato un caso emblematico. Di appalti poco chiari legati all'Expo ha parlato anche il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone, nella sua prima uscita a Milano dopo la nomina da parte del governo. La corruzione non era stata debellata, ma lavorava assolutamente in modo indisturbato. Quindi io credo che non c'è stata solo una sottovalutazione in Expo, c'è stata una sottovalutazione del fenomeno in linea generale. Ora per Cantone si tratta di fare un salto di qualità sul piano della trasparenza, perché solo così si può recuperare anche dal punto di vista dell'immagine internazionale. Massimiliano Zampini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo adesso al tema delle riforme. Su questo tema si sente qualche scricchiolio, come vi anticipavo, nella maggioranza. L'accordo dovrebbe essere vicino per Forza Italia, ma intanto si allarga la fronda sul Senato elettivo. Sono 580 i subemendamenti al testo preparato dai relatori Anna Finocchiaro e Roberto Calderoli sulla riforma della Camera Alta. 35 senatori però sono d'accordo con l'emendamento del democratico Vannino Chiti sul Senato elettivo, 18 della maggioranza. Intanto Paolo Romani di Forza Italia è convinto che l'intesa sia a portata di mano. Renzi vuole un Senato di secondo grado, ci sono molti senatori che vedrebbero invece meglio un'elezione diretta. Sarà a mio avviso l'Aula a decidere. La fronda però investe anche Forza Italia e tra i nomi spicca Augusto Minzolini, tanto che Renato Brunetta, capogruppo alla Camera, auspica una riunione dei parlamentari azzurri. Ferma sul testo del governo e quindi sul Senato non elettivo Anna Finocchiaro dei Democratici. Francamente, siccome sono tutte questioni serie quelle che vengono poste e siccome stiamo riformando la Costituzione della Repubblica, io penso che ciascun argomento dovrà essere approfondito e dopodiché si vota. Riguardo poi la riforma della legge elettorale, il Movimento 5 Stelle insiste sulle preferenze, ma Romani ribatte: si parte dall'Italicum. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso siamo alla cronaca, si torna a parlare del caso Frangioni, abbiamo parlato già due giorni fa perché c'era l'udienza al Tribunale di Sorveglianza per chiedere i domiciliari. Ebbene, sono stati accolti per la mamma di Cogne, condannata a 16 anni per aver ucciso il figlioletto Samuele. È tornata nel pomeriggio a casa sua, Ripoli, Santa Cristina, da oggi è domiciliari, appunto concessi dal Tribunale, e poi parleremo con il perito del Tribunale. Due giorni fa avevamo qui in affetto note il perito invece di parte. E poi c'è l'addio a Ciro Esposito. Domani a Scampia si svolgeranno i funerali del tifoso. L'autopsia ha confermato che è morto per un colpo di pistola sparato dal terzo uomo che lo ha raggiunto alla schiena. E sentiamo in TV uno dei legali della famiglia Esposito, Damiano De Rosa. Da un primo risultato sicuramente si può dire quello che già si sapeva, ovvero che la morte di Ciro è dovuta alle gravissime degenerazioni dovute alla traiettoria del proiettile che ha trapassato alcuni organi, tra cui ovviamente anche il polmone. E adesso parliamo invece della Chiesa, della famiglia e non solo della famiglia, della società. In vista dell'assemblea straordinaria sulla famiglia convocata da Papa Francesco per ottobre, è stato presentato oggi in Vaticano un documento episcopale molto importante. Tra le varie cose che vi si leggono, a proposito per esempio di coppie omosessuali, si dice che non possono essere assimilate al matrimonio ma devono essere accolte con rispetto e delicatezza. Questo è uno dei temi che affronterò questa sera con un ospite. E poi per quanto riguarda i mondiali, in chiusura sono rientrati, lo sapete, oggi i giocatori della nazionale, molto mesti. L'altra notizia del giorno, a parte le partite, è quella che riguarda Suarez, il giocatore dell'Uruguay, che ha morsicato Chiellini sulla spalla. Anche per lui il mondiale è finito, 4 mesi di sospensione da ogni attività calcistica, non potrà neanche accedere agli stadi, e una multa da 82.000 euro. Tornerà in campo a fine ottobre. Intanto la squadra dell'Uruguay si oppone a fare ricorso, ma persino il governo uruguaiano si lamenta, dice che è una sanzione troppo pesante. Insomma, allora vi lancio un po' questa provocazione, no? Visto che anche il governo dell'Uruguay si fa sentire, mi pare questa quasi un'inedita battaglia per difendere il diritto alla mozzicata. Potrebbe rientrare nei diritti civili questo diritto alla mozzicata, che ne dite? Vedo ancora i vostri messaggi, per esempio Angelo dice: è uno sport che si gioca con i piedi, non col cervello. Domenico: siamo al ridicolo. Nicola dice: ma basta, non se ne può più, però stasera ti ascolterò lo stesso come tutte le altre sere, bontà sua. Grazie Nicola, sono contenta. Vittorio: anche per un licantropo, se esistesse, dice, sarebbe difficile la doppietta, morso testata. Il governo uruguaggio ci dia una spiegazione valida se ha dei vaccini per combattere questa epidemia, se è trasmissibile oppure no. A parte l'ironia, questi sono alcuni commenti sulla sanzione a Suarez. Potete commentare naturalmente anche gli altri temi di questa sera. Vi ricordo il numero per i messaggi: 349-238-6666. Per la pagina Facebook è quella di Effetto Notte, naturalmente. Un altro messaggio prima di lasciare la viabilità: Max da Novara, immagino. Suarez dice: 9 giornate non sono poche, come al solito paga sempre l'animale e mai il padrone che non gli mette la museruola. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci subito, vi ricordo tra pochi istanti quali sono le notizie più importanti, quali sono state quelle della giornata, tanto per farvi un riepilogo ogni tanto. Ci sono tanti che magari accendono la radio in quel momento, magari ascoltaste tutta l'ora, io vi chiedo di ascoltare dalle 21 alle 22, qualcuno magari non ce la fa, non può, ha un impegno. Comunque, queste le notizie. Il vertice dell'Unione Europea fra flessibilità e crescita. Renzi dice: diamoci una smossa, ci potrebbe essere, dovrebbe essere molto vicino, via libera su Juncker alla Commissione Europea, ma bisogna seguire una strategia comune, dice Renzi, c'è appunto la stretta finale sulle nomine. Per le riforme si apre il nodo del Senato, ci sono molte tensioni anche all'interno del PD e comunque nella maggioranza. Confindustria taglia la stima del prodotto interno lordo. Squinzi, il presidente di Confindustria, dice: ci vorrebbe una scossa politica, non una manovra. E poi il mesto rientro degli azzurri con Albertini, che presto dovrebbe essere il nuovo CT. Anna Maria Franzoni esce dal carcere, è stata ammessa ai domiciliari, c'è stata sì alla richiesta di accudire il figlio più piccolo. E poi la Corte dei Conti, che dice che in Italia la corruzione dilaga ovunque. Intanto il presidente dell'autorità contro la corruzione Cantone vara un'unità speciale per i controlli sull'Expo. Il sinodo per la famiglia apre alle convivenze e alle unioni di fatto e al battesimo dei figli derivanti dall'unione gay. Per i fedeli si può continuare con la contraccezione. Poi parleremo anche di questo tema, di questo documento episcopale che è stato pubblicato, ma intanto ci occupiamo di altro. Ci occupiamo del vertice che c'è a Ypres, se si dice così, nelle Fiandre, questa cittadina. Enrico Brivio, tu che sei lì da un po'. Sì, sono qui nella piazza di Ypres. In questo momento stanno uscendo i primi ministri dopo la cena della serata. Hanno mangiato bene? Hai chiesto qualcuno? Presumo di sì. È stata una cena abbastanza rapida, in fondo non ci sono... C'era chi pensava potessero continuare a discutere e magari litigare nella notte, ma questo non succede. Senti questo rombo di motociclette che passano, sono le staffette dei primi ministri che stanno uscendo. Hai capito? Niente morsi ci sono stati oggi tra loro, no? Sai. No, grazie a Dio no, ci sono celebrati purtroppo le vittime della Grande Guerra qui a Ypres, che è una città che certo. Fu martoriata dalla Grande Guerra, e in cui ricorrono i 100 anni dall'assassinio di Sarajevo. 28 giugno, proprio questo sabato, no? 100 anni. Forse però poi gli europei hanno anche incontrato dei giovani, ognuno uno per paese, e questi forse sono vittime oggi della grande crisi, diciamo, possiamo dire così, anche se è un paragone un po'... È un altro tipo di disastro. È un altro tipo di disastro, ovviamente non così... Cruento. Cruento, sì. Però insomma... c'è la sensazione che qualcosa che bisogna fare per cercare di far ripartire questa economia che comunque lascia una montagna di disoccupati. Su questo si è discusso, da parte italiana c'è una certa soddisfazione per il fatto che si fa riferimento a una maggiore flessibilità dell'Europa nei confronti di chi farà delle riforme. Pare questo, insomma, che anche in una faccia a faccia con la signora Merkel prima di questa cena Renzi abbia insistito perché venga specificato ancora di più questo concetto nel documento finale che verrà rilasciato domani. Perché Renzi ha detto, se sì, troviamo un compromesso sulle nomine, in particolare su Juncker, il lussemburghese Juncker, per la presidenza della Commissione Europea, però cerchiamo un po' di essere più flessibili su questi vincoli, no, del patto di stabilità. Esattamente, esattamente. Un'idea che, per esempio, mi scuso per il rumore, ma sono proprio le che passano. Di fare meno rumore, di loro di essere un po' più silenziosi. Hanno delle motociclette con le loro sirene blu che li accompagnano. Devo dire sì, c'è questa idea, tra l'altro un'idea che l'Italia sta adesso mettendo a punto, è quella che perlomeno i finanziamenti che un paese impegna nei progetti comunitari non vengano conteggiati nel patto di stabilità, ovvero se un paese deve finanziare delle grandi opere, questo almeno non gli vada conteggiato nel deficit e in quel famoso 3% che è una soglia che può essere problematica per un governo che vuole fare degli investimenti. Questo è un punto. Poi domani si parlerà delle nomine, come dicevi Juncker è favorito, però sugli altri nomi appare difficile che si arrivi a un accordo. Quindi potrebbe esserci necessità di un altro vertice straordinario in luglio, a quel punto a presidenza italiana. E poi sulla Mogherini non si è detto ancora nulla, la ministra degli esteri nostra, del governo italiano. Adesso questa è la discussione che entrerà nel vivo domani. Oggi si è parlato più dei contenuti e dell'agenda, ovvero poi nei colloqui dietro le quinte senz'altro si è parlato anche di questi nomi, e come sappiamo quello del ministro Mogherini è molto caldo, perché è un'ipotesi, ma un'ipotesi che l'Italia vorrebbe vedersi concretizzare, ovvero la carica di alto rappresentante per la politica estera. Però domani la discussione passerà dai contenuti e da questo documento programmatico alle poltrone, però è difficile che domani si riesca anche a avere più del nome di Juncker. Speriamo che se viene poi la nomina per il ministro Mogherini sarebbe una grossa vittoria per l'Italia, però è estremamente probabile che avvenga domani, insomma, semmai in una seconda tornata. Quindi ci colleghiamo ancora domani, allora, Enrico Brivio. Va bene? Benissimo. Ciao Enrico, buona permanenza intanto. Grazie. Ciao. Buona serata. Adesso invece passiamo alle questioni un pochino più interne, lì si vanno comunque a difendere anche questioni interne, no? Oltre che nel panorama più ampio europeo di integrazione reciproca. Parliamo delle nostre questioni economiche. Oggi il Centro Studi di Confindustria ha stimato che il PIL, il prodotto interno lordo italiano, salirà dello 0,2% quest'anno e dell'1% nel 2015, quindi ha visto le previsioni, in particolare le previsioni del governo, un po' a ribasso, anche se Del Rio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha riconfermato che invece no, le stime giuste sono quelle del governo. Insomma, Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, chi ha ragione? Chi ha ragione? Non lo so, io non ho la sfera di cristallo. Il governo, insomma, continua a dire che verrà rispettato l'obiettivo della crescita del PIL, che è stato previsto a più 0,8%, quindi diciamo non una crescita straordinaria. Peraltro ricordo che nel primo trimestre del 2014 il PIL ha subito una variazione negativa, meno 0,1, che già qualche settimana fa aveva in qualche modo fatto mettere in dubbio, insomma, che si potesse raggiungere l'obiettivo dello 0,8. Oggi Confindustria esce con una stima molto molto più prudente, più 0,2 nel 14 quest'anno, come hai detto tu, e più 1 nel 2015. Ricordo anche che già, insomma, altri organismi internazionali molto autorevoli, ad esempio la Commissione europea, ritenevano un po' troppo elevato lo 0,8 al quale puntava il governo. Del Rio, anche questo l'hai ricordato tu, ma peraltro anche Padoan, seppur in modo molto più, diciamo, cauto, insomma, il governo, direi, nel suo insieme sostiene che questo obiettivo potrebbe essere raggiunto. Ho letto anche che il, insomma, responsabile economico del PD, Taddei, ha detto che assolutamente le stime di Confindustria non tengono conto delle misure che, insomma, in questi mesi sono state fatte dal governo. In particolare lui si riferisce ai famosi 80 euro e, diciamo, a tutte le altre, gli altri provvedimenti approvati in questi mesi che dovrebbero, insomma, consentire. Noi ovviamente tutti ci auguriamo che ha ragione il governo e che la crescita sarà un pochino più elevata di un risicato 0,2. Insomma, devo dire che guardandoci in giro non è che abbiamo tantissimo ottimismo. C'è ottimismo che invece, devo dire, è arrivato comunque anche da Confindustria, no? Perché il presidente Squinzi, invece, seppur riconoscendo, insomma, che la situazione è ancora difficile, che la ripresa economica nel nostro paese è lenta, che è in ritardo rispetto ad altri paesi, però lo stesso nel discorso che ha fatto oggi a Roma, quando il centro studi presentava questi dati, è che, insomma, vede un paese comunque che si sta allontanando dal baratro, che è quasi fuori dal baratro. È, diciamo, una cosa importante, perché senz'altro, insomma, Squinzi coglie anche un po' l'umore della base imprenditoriale, che senz'altro sta vivendo questo momento anche politico, insomma, col ruolo di Renzi, che è un politico nuovo, che ha più coraggio, che sembra avere, insomma, capacità e volontà di decidere. Certo, poi bisogna fare le cose, bisogna fare le riforme, bisogna lavorare davvero per la competitività del paese, bisogna saper fare gli investimenti, bisogna lavorare sulle infrastrutture, bisogna lavorare sul incentivare la ricerca, bisogna tagliare i costi della burocrazia, bisogna soprattutto, insomma, creare lavoro. Quindi le sfide che ci aspettano sono tante. Senz'altro in questo momento c'è maggiore fiducia verso quello che la politica potrebbe fare. E a questo proposito, Chicco Padula, allora ti faccio sentire un passaggio di Renzi oggi lì al vertice, anche se vedo poco fa un'agenzia dove si legge di uno scontro, addirittura di tensione, tra Renzi e Merkel. Noi rispettiamo e rispetteremo i patti, non faremo come fece la Germania nel 2003, quanto avrebbe detto, riferiscono fonti europee, il Presidente del Consiglio Renzi in un momento di tensione con Angela Merkel al vertice dell'Unione Europea rispetto ad alcune ipotesi di misure sulla flessibilità, come il cofinanziamento di fondi europei e il saldo dei debiti della pubblica amministrazione. Ma dicevo, sentiamo anche questo passaggio. L'Italia non ha qualcosa da portare a casa contro gli altri o a differenza degli altri. Si tratta di prendere atto del messaggio molto chiaro che è arrivato dalle elezioni europee. È un messaggio che fa riflettere per la forza e il significato che ha avuto, e capire che se vogliamo bene all'Europa dobbiamo darci una smossa e cercare di preoccuparci un pochino di più della crescita e della lotta alla disoccupazione di quanto abbiamo fatto sino adesso. Quindi non c'è una posizione dell'Italia contro gli altri. C'è la posizione, credo, dell'intero gruppo socialista e democratico europeo, c'è una posizione del PD, che è il partito che ha preso più voti di tutti in Europa, il numero assoluto di voti più alto di tutti, che è quello di dire tutti insieme scommettiamo sulla crescita e preoccupiamoci un pochino di più dell'Europa delle famiglie, non soltanto dell'Europa delle burocrazie. Insomma, hai sentito, sintetizzando tutto quello che tu avevi elencato, Chicco Padula, Renzi ha detto diamoci una smossa, ecco, questo è un po' sì. Renzi, insomma, in questi giorni sta, insomma, sostenendo, spesso usando termini diversi, però parole diverse, però sempre con lo stesso obiettivo, sta dicendo quello che peraltro, devo dire, molti dicono da tanto tempo, cioè che questa Europa si deve dare una mossa, che è finito il tempo della sola politica del rigore, che è stato probabilmente importante in una certa fase di questa lunga crisi, ma che oggi è assolutamente anacronistico, e che quindi serve avere più attenzione, lui ha detto, diciamo, alle famiglie, io direi più in generale alla società, all'economia, alle esigenze delle imprese, ovviamente delle famiglie, di chi lavora, dei lavoratori, certo, eccetera. Grazie Chicco Padula, buon lavoro allora. Grazie a voi, grazie, ciao, a te, Chicco. Ciao Roberta, ciao. Ciao. E intanto vedo un messaggio di Rosa che dice: deprimente tutto lo spazio e peso che viene dato al calcio in Italia, ci sono cose più serie di cui gli italiani e i giornalisti, dice, dovrebbero occuparsi. Guarda, Rosa, proprio con una che quando parla di calcio fa soprattutto ironia, diciamo, non ho un grande stima e apprezzamento per lo sport del calcio, sì, ma per i calciatori in genere no. Quindi se lo si fa, sono proprio un po' gli scampoli di questa mondiale andato malissimo, ne parleremo ancora oggi per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'effetto notte, magari anche un po' domani, poi la faccenda mi sembra abbastanza chiusa. E chiudo qui questa parte di Effetto Notte, giusto una pausa di riflessione, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, per voi ricordate, e poi ci sono altri argomenti, parleremo dei domiciliari concessi a Anna Maria Franzoni, parleremo di questa apertura, sembra, del sinodo dei Vescovi, capiremo se è una cosa concreta oppure no, poi torneremo anche a parlare brevemente di questa mozzicata. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. A proposito di notizie, prima di ricordarvi in breve le principali di oggi, c'è un'altra notizia che è arrivata, una buona notizia, speriamo che sia definitiva, l'incubo di Meriam, la donna sudanese, ricordate, libera per la seconda volta, la donna cristiana che ha rischiato l'impiccagione per apostasia, cioè figlia di un uomo musulmano, ha sposato un uomo cristiano, anche se il padre l'aveva abbandonata poi a 2 anni, quindi era stata condannata a morte, vi ricordate, è stata rilasciata dopo essere stata fermata martedì in aeroporto mentre tentava di lasciare il Sudan per raggiungere gli Stati Uniti e tenuta poi per circa 48 ore, tuttavia non può ancora lasciare il paese e deve aspettare il nulla osta della Corte d'Appello che ratifichi l'annullamento della sentenza di condanna. E poi invece, per quanto riguarda le altre notizie, il vertice europeo, Renzi sottolinea l'Europa si dia una mossa su occupazione, pensi alle famiglie, intanto si fa più vicino alla nomina di Juncker per la Commissione. Confindustria taglia le stime del PIL italiano, il presidente Squinzi commenta, ci sono numeri difficili ma siamo fuori dal baratro, non serve una nuova manovra. Riforme, si riapre il nodo del Senato, tensioni nel PD. In 34 chiedono l'eleggibilità del nuovo Senato, la vicenda di Cogne, di cui parleremo tra pochissimo, concessi domiciliari ad Anna Maria Franzoni, e poi il sinodo per la famiglia, la Chiesa prende atto che tanti cristiani non accettano più integralmente la dottrina. Per i mondiali ne abbiamo parlato, non è finito solo per gli azzurri ma anche per Suarez, perché il morso gli costa 9 partite in nazionale di sospensione e 4 mesi di squalifica. Dicevamo quindi di questa notizia che è arrivata oggi. Anna Maria Franzoni ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dove si era tenuta giorni fa un'udienza appunto per chiedere che la residua pena dei 16 anni fosse scontata ai domiciliari. Avevamo avuto 2 giorni fa un perito di parte che aveva assicurato con questa perizia integrativa che non c'è più il rischio di recidiva da parte di Anna Maria Franzoni e neanche pericolosità sociale. Si sono aspettati questi 2 giorni, quanti sono passati, e il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha deciso, ha detto sì, che è possibile concedergli, anche se è stato immediatamente esecutivo questo provvedimento, perché Anna Maria Franzoni è tornata a casa dal marito e dai 2 figli. E c'è in collegamento il professor Augusto Balloni, che saluto. Buonasera professore. Buonasera. Docente di antropologia criminale all'Università di Bologna, presidente della Società Italiana di Vittimologia. Non sapevo che esistesse una Società Italiana di Vittimologia. Esattamente si prende, insomma, studia le vittime di reati, delitti? Le vittime dei reati, delle ingiustizie, degli abusi, tutto quel che riguarda il danno che può essere fatto a una persona. Molto interessante, professor Balloni. Però, restando sulla questione di Anna Maria Franzoni, lei invece è stato perito del Tribunale? Sono stato consulente d'ufficio del Tribunale di Sorveglianza. E lei a sua volta quindi conferma, se evidentemente poi è stato questo il provvedimento deciso, che non c'è rischio di recidiva né di pericolosità sociale da parte di Anna Maria Franzoni? In un certo confermo con questa precisazione, insomma, è stato detto che non c'è il rischio di una recidiva specifica, cioè non dovrebbe, auspichiamo, ripetere il reato per cui è stata condannata. Ci sono degli elementi di pericolosità generica, si è detto, che possono essere neutralizzati nell'ambito di una libertà assistita. Lei era già in una posizione di alternativa alla detenzione con il lavoro all'esterno da parecchio tempo, con notevoli permessi che le erano stati concessi negli ultimi 6-8 mesi, quindi una sperimentazione, diciamo così, all'esterno della detenzione era già stata fatta e oggi è stata sancita la possibilità di proseguire la detenzione attraverso la detenzione domiciliare. Quindi queste 18 pagine dell'ordinanza effettivamente si parla anche di questa residuale pericolosità sociale che però può essere contenuta grazie all'apporto della famiglia di una terapia psichiatrica di sostegno. Sì. Quindi questo residuo, come lei in qualche modo diceva, rimane, però i giudici hanno pensato... Il residuo deve essere interpretato in questo modo. Si parla di rischio che uno ha di commettere dei reati, tutti siamo a rischio di reato, qualcuno l'ha un po' di più e la nostra norma, la nostra legge dice che chi ha commesso un reato può essere socialmente pericoloso se c'è il rischio che possa commetterne altri. Ecco, in questa prospettiva va letto quel che è stato detto riguardo alla Franzoni, ecco. Professore, quindi Anna Maria Franzoni è tornata a casa, ci sono ad aspettarla, sì. C'erano ad aspettare il marito e i due figli, adesso il più grande ha 18 anni, sono passati 12 anni da allora. Sta superando, gli auguriamo la maturità. Certo, e poi l'altro di 11 anni che è venuto al mondo dopo questo omicidio. Mi dico una cosa che mi ha colpito molto in alcune, diciamo, punti di questa ordinanza è che si legge: nella concessione della detenzione domiciliare il Tribunale ha osservato che per prendere questo tipo di decisione, cioè concedere le domiciliari, non è necessaria la confessione del crimine commesso. Beh, questo direi che deve essere accettato. Uno è condannato per il crimine, non è necessario che lo confessi, no? Questo nel nostro ordinamento è ammesso. Ma quello che vorrei capire, ecco, quindi Anna Maria Franzoni, secondo lei, che è un criminologo, un psichiatra, eccetera, ha preso coscienza di quello che è successo oppure no? Lei ha preso coscienza della morte di un figlio per il quale non si ritiene colpevole. Il problema è questo, ecco. Lei ha sempre protestato la sua innocenza. E quindi, potrebbe essere innocente, potrebbe essere un modo, attraverso i meccanismi di difesa, per superare questo senso di colpa. Attraverso i meccanismi di difesa, che sono quelli che fanno superare le difficoltà della vita. Sono meccanismi psicologici inconsci, ecco. Lei, professor Balloni, visto che appunto è criminologo, ritiene che quello dell'infanticidio da parte di una madre sia un tipo di delitto completamente diverso dagli altri omicidi? Senz'altro, ecco, adesso banalmente si differenzia moltissimo dagli omicidi per strumentali, qua c'è una base emotiva, affettiva sempre, no? Strumentali intendo l'omicidio che si realizza nel corso di una rapina, o strumentale peggio ancora quello della criminalità organizzata, ecco, sono estremamente diversi da questi dove si parla di omicidio espressivo, ecco, perché ci sono delle qualità molto differenti in cui giocano i fattori emotivi, i legami familiari. Si pensi all'infanticidio tipico, ecco, che delle volte è fatto per altruismo, si parla infatti di omicidio altruistico, ecco. Quindi la differenza è enorme, ecco. Un'ultima domanda, professor Augusto Balloni, le faccio. Secondo lei, lo chiedevo anche al perito due giorni fa, ma ha dato una risposta un po' vaga su questa cosa, o comunque quello che riteneva opportuno. Allora, considerando appunto che è un tipo di, come lei ha spiegato, di reato diverso, torna in famiglia Anna Maria Franzoni, ci sono due figli, uno effettivamente adesso comincia a essere grandicello, 18 anni, l'altro 11 anni. Secondo lei come si può ricreare un equilibrio tra due ragazzi, tra due figli e una madre, essendo consapevoli che comunque lei probabilmente, anche se forse lei l'ha rimosso, ha ucciso un fratellino. Io le posso fare un esempio di una madre che uccise una bambina molti anni fa che seguì per molto tempo. Ricompose il suo ambiente familiare, il legame con i suoi figli che erano sopravvissuti a questo tentativo di suicidio allargato, erano molto buoni, perché piano piano sublimò e disse: vabbè, qua è stato un segno del destino, la mia bambina è diventata una santa e ci aiuterà. Anche questo è un meccanismo per superare le tragedie, ecco. E speriamo che qua si sublimi e si trovi, attraverso dei ragionamenti che senz'altro faranno, delle motivazioni per cui il senso di colpa si allontani e si realizzi finalmente, si superi finalmente il lutto, ecco, si guardi un po' avanti. Ormai purtroppo Samuele è morto 12 anni fa, nessuno lo può far resuscitare, e quindi l'importante è che si placchino i sensi di colpa e trovino una giustificazione che ricostruisca un po' l'affetto familiare, la costellazione di questa famiglia. Nella necessità di andare avanti, insomma. Sì. La ringrazio, professor Augusto Balloni. Grazie. Grazie. Buon lavoro, buona continuazione. Grazie. Grazie. E ora invece cambiamo argomento e parliamo di questo documento importante che è stato presentato oggi in Vaticano in vista dell'Assemblea straordinaria della famiglia convocata da Papa Francesco per il prossimo ottobre. Un documento predisposto dal Sinodo dei Vescovi che riguarda tanti aspetti della società, per esempio quello della famiglia in crisi, le risposte sulle convivenze, sui separati, sui risposati, sulle ragazze madre, sui divorziati, sulle unioni gay anche. Vorrei il parere su questo documento di Vito Mancuso, che saluto, teologo, docente di storia delle dottrine teologiche all'Università degli Studi di Padova. Buonasera Mancuso. Buonasera, buonasera. Ecco, ha avuto modo quindi un po' di approfondire questo documento, professor Mancuso, e di capire se ci sono effettivamente dei cambi di rotta, mi pare un po' difficile, però delle aperture da parte della Chiesa Cattolica. Ma guardi, il documento ha semplicemente una funzione, di non aprire, di chiudere nulla, ma di presentarsi come instrumentum laboris, così si chiama nel sottotitolo, uno strumento di lavoro. E scaturisce dal fatto che il Vaticano, Papa Francesco per la precisione, ha indetto un sinodo straordinario sulla famiglia che si terrà ad ottobre. E per prepararsi a questo sinodo il Papa ha deciso di mandare un questionario a tutte le diocesi del mondo su le grandi tematiche che richiamava anche lei prima, che riguardano appunto la vita familiare, sessuale e così via dei cattolici. Questi risultati sono giunti in Vaticano, sono stati vagliati dagli esperti e gli esperti hanno prodotto questo documento, questo strumento di lavoro che sostanzialmente servirà ai vescovi per imbastire le discussioni. Quindi è un documento strumentale, come dice già il nome stesso, che servirà soprattutto ai vescovi che prenderanno parte al sinodo per prendere le decisioni. È lì, è nel sinodo che io spero ci saranno effettivamente cambiamenti di rotta, che ci sarà qualche apertura, a mio avviso assolutamente necessaria per la morale familiare e sessuale della Chiesa Cattolica, che lo richiede, che non è all'altezza della situazione, diciamo così. Infatti Mancuso, mi pare che un elemento che emerge con particolare incisività da questo sondaggio globale fatto dalla Chiesa è che i credenti cattolici ritengano che sia ormai un po' stretta la dottrina cattolica tradizionale, no? Non solo i credenti cattolici comuni, ma il documento in ben tre casi dice che persino gli stessi pastori, come li definisce, cioè insomma i sacerdoti, i professionisti, ecco, che dedicano tutta la loro vita alla missione evangelizzatrice, persino i preti sono talora in disaccordo, persino loro, dice questo documento, talora dicono ai fedeli di non approvare la dottrina della Chiesa e hanno nei confronti delle norme canoniche atteggiamenti diversi. Per esempio, ci sono preti che dicono che la morale sessuale della Chiesa cattolica non va osservata fino in fondo, altri che al contrario sono molto più rigoristi. Ci sono preti che amministrano i sacramenti ai divorziati risposati, altri che invece non li amministrano secondo la legge della Chiesa cattolica. E questo che cosa significa? Questo significa esattamente una confusione di fondo non solo tra i fedeli, ma tra gli stessi pastori in cura d'anime, tra gli stessi sacerdoti. E questo ancora di più significa che la morale cattolica, così come attualmente è configurata, soprattutto per quanto riguarda la morale sessuale, non è più adatta ai nostri tempi. Certo, il mondo è cambiato, si è evoluto, poi dipende dai punti di vista, però questa rigidità, come lei diceva, neanche tra i parroci stessi è rimasta, insomma ci sono differenze di atteggiamento. Quindi si può sperare, diceva professor Mancuso, che in questo incontro, questo sinodo che ci sarà, ne prenderanno un po' atto e vedranno un po' in che direzione muovere. Guardi, il documento dice una cosa, come ho potuto leggerlo abbastanza di corsa questo pomeriggio, ma dice una cosa molto significativa. Qual è il concetto base su cui si fonda la morale sessuale della Chiesa cattolica attuale? È la cosiddetta legge naturale. Ebbene, il documento dice che questo concetto della legge naturale, che lo ripeto è fondativo della morale ecclesiastica, questo concetto è totalmente al di là della possibilità di essere capito da parte dei cattolici di tutto il mondo, nel senso che il concetto di legge naturale dalla coscienza ordinaria comune non viene assolutamente compreso, viene frainteso in mille modi e quindi non è più tale da fondare nella coscienza contemporanea alla legittimità della legge morale che la Chiesa cattolica propone. E questo il documento lo dice in maniera molto chiara. Adesso si tratterà di vedere se i vescovi prenderanno atto di questa debacle, perché a mio avviso questo il documento dice, e cambieranno, oppure se invece non avranno questo coraggio e allora i problemi rimarranno. Sarà interessante rimanere a vedere, insomma. La ringrazio moltissimo, professor Vito Mancuso. Bene, grazie. Bene, grazie, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie sono queste, quelle del vertice europeo che durerà sino a domani, e poi di Confindustria che taglia il PIL italiano. Avete sentito Anna Maria Franzoni, è stato concesso a lei gli arresti domiciliari per scontare il resto della pena, e poi il ritorno mesto dai mondiali degli azzurri. Parliamo invece di Europa, parliamo di energia sostenibile. La settimana dell'energia sostenibile, più grande evento europeo del settore, punto di riferimento per enti pubblici, agenzie per l'energia delle aziende, organizzazioni non governative, associazioni, insomma tutti coloro che sono impegnati a raggiungere gli obiettivi energetici e climatici indicati dall'Unione Europea. La nona edizione della settimana europea per la mobilità sostenibile si chiude domani 27 giugno. Dalle energie rinnovabili alle soluzioni per risparmiare sia a livello pubblico che privato, alla diffusione di buone pratiche e modelli innovativi. Tante le iniziative in questa settimana in tutti i paesi membri, tra cui il concorso Premio Europeo Energia Sostenibile, che verrà assegnato a progetti innovativi legati all'energia rinnovabile e alla mobilità pulita. Alessandra Schepisi ha sentito Claudia Carnevari, vice capo unità direzione generale di energia e organizzatrice della settimana. Europa 24 notte. Si tratta della nona edizione, per cui è diventato veramente un evento ormai tradizionale che si svolge in tutta Europa. C'è una conferenza di alto livello a Bruxelles da oggi a giovedì, quindi dal 24 al 26, però la settimana appunto è cominciata ieri attraverso l'Europa. Sono circa più di 900 eventi che sono organizzati nell'ambito di questa settimana dell'energia sostenibile, che è nata proprio con l'idea di come dire, sottolineare l'importanza della sostenibilità nell'ambito energetico e quindi fare in modo che anche i cittadini nei vari stati membri vedessero l'utilità del concetto della sostenibilità applicato anche all'energia e con il coinvolgimento appunto dei cittadini, delle scuole, associazioni, quindi diciamo si tratta di eventi di generi molto disparati ma tutti volti a coinvolgere ed informare le persone. Per quanto riguarda l'Italia, quali sono state le iniziative? C'è stato abbastanza coinvolgimento anche rispetto agli altri paesi? Sì, ce ne sono proprio un po' dappertutto, proprio in tutta Europa abbiamo visto effettivamente che si svolgono veramente a macchia d'olio, c'è sempre molto coinvolgimento. L'Italia tra l'altro è molto attiva in materia dell'efficienza energetica, in modo particolare della sostenibilità e rinnovabili, quindi diciamo c'è molta attenzione anche da parte del pubblico per queste problematiche. Ecco, e poi ricordiamo insomma che ci sono degli obiettivi a livello europeo, no? Che devono essere raggiunti. Assolutamente, diciamo che così abbiamo questi obiettivi dei famosi 20-20-20 in materia di energie rinnovabili, in materia di gas a effetto serra e in materia di efficienza energetica, e sono stati decisi già nel 2007 dal Consiglio europeo proprio perché appunto sono dei settori nei quali è molto importante lavorare per la sostenibilità, ma che hanno anche degli aspetti molto importanti per quello che riguarda la crescita e quello che riguarda l'occupazione. L'efficienza energetica in modo particolare diciamo ha una serie di vantaggi che si possono ottenere contemporaneamente in materia appunto di occupazione, in materia di diminuzione delle importazioni dell'energia, quindi diciamo risparmiando fondi che possono essere utilizzati per altri usi, e quindi diciamo hanno veramente tantissimi vantaggi. E come lei sa, in gennaio la Commissione ha adottato una comunicazione che porta degli obiettivi per il 2030, quindi che allunga la durata di questi obiettivi di 10 anni, e sono obiettivi diciamo importanti per quello che riguarda il gas a effetto serra, per quello che riguarda le rinnovabili. Per l'efficienza energetica la Commissione sta lavorando adesso su una revisione della direttiva in materia di efficienza energetica, che aggiungerà l'obiettivo efficienza energetica anche per il 2030 e dovrebbe essere adottata nel corso del mese di luglio. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E catapultiamoci subito in Brasile, visto che sono proprio gli ultimi scampoli via di questo mondiale per noi, poi diciamo effetto notte ce ne occuperemo gran poco. C'è Dario Ricci che è ancora lì in Brasile, a Rio de Janeiro dovrebbe essere. Dario, ho saputo che anche il governo dell'Uruguay difende il diritto alla mozzicata, è vero? Chiaramente l'Uruguay fa le barricate, è popolo combattivo, noi lo conosciamo bene perché Garibaldi combatté per noi ma anche per loro. Eroe dei due mondi, quindi, del resto, certo. Esattamente, eroe dei due mondi, e quindi sceso in campo per difendere Luis Suarez, che però è stato squalificato fortunatamente per 9 giornate in seguito al morso di Chiellini. Quindi insomma 9 giornate, 4 mesi, 82.000 euro di multa. Direi che anche stavolta Suarez, che è recidivo proprio in materia, ha fatto l'empreno. Senti, ma è vero che, quindi, io auspicavo una perizia psichiatrica, è vero che lo segue uno psichiatra o una leggenda metropolitana, che tu sappia? Diciamo che forse lo insegue uno psichiatra. Lo insegue. Però, è meglio che non si giri, realtà, gli dà una mozzicata per lui. No, è vero che sicuramente, essendo appunto stato protagonista almeno in altre 2 occasioni di aggressioni in campo di questo tipo, insulti razzisti a un altro giocatore del Manchester United, il suo caso ha interessato diversi psicologi, esperti dello sport, ma diciamo che mi sembra ancora non risolto, ecco. No, decisamente non risolto. In più mi pare che con lo stesso Chiellini sia stato recidivo, quindi secondo me, io insisto, siccome ha delle belle spalle effettivamente Chiellini, l'ho visto, io credo che abbia una passione anche per le spalle di Chiellini, però probabilmente irrisolta, che non si può dire, non so, insomma, cerchiamo. Intanto ha avuto questa sanzione, mi sembra il minimo, no? Dario. Sì, avesse morsicato pure a te da qualche parte. No, ho avuto appunto questa sanzione, escluderei altre pulsioni, in quel caso facciamo riferimento al padre di tutti gli psicologi, gli psichiatri, Sigmund Freud, ecco. Chissà cosa direbbe. Grazie Dario Ricci, noi ci sentiamo domani. Grazie. Ciao Dario, tra poco.